Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Grecia con Andrea Roncaglione. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Quanti di voi si sognano ancora il professore di greco del liceo? Beh, pare sia abbastanza normale. Niente paura. Traumi adolescenziali che formano il carattere. L'importante è che questo non abbia condizionato la vostra visione generale della Grecia. La Grecia, detta anche Repubblica Ellenica, fa parte della penisola balcanica e confina a nord con Albania, Repubblica di Macedonia e Bulgaria, oltre che a nord-est con la Turchia. Più di un quinto della superficie totale è composto da oltre 3.000 isole, più o meno grandi, di cui 167 abitate. A est e a sud c'è il Mar Egeo. Il versante occidentale è bagnato dal Mar Ionio. La capitale è Atene, la seconda città è Salonicco. Il clima è tipicamente mediterraneo, con un'estate calda e secca e un inverno mite ma piovoso. La primavera e l'autunno sono, invece, delle stagioni molto corte. In Grecia, che ha un territorio all'80% collinare o montuoso, vivono circa 12 milioni di persone. La lingua ufficiale è il greco, la religione principale quella cristiana ortodossa. In barba a tutta la tensione accumulata nell'ora di greco per paura di un'interrogazione, oggi ho deciso di farmi un giro in Grecia, magari beneficiando di tutto quello che fino a qualche anno fa mi sembrava solo una tortura del programma scolastico. E a farmi da Virgilio in questa simbolica discesa agli inferi c'è Andrea Roncaglione, che dell'Ellade si è innamorato non solo perché, come ognuno di noi, la porta dentro per cultura, ma anche perché è un luogo che non può non mietere vittime, soprattutto a una certa età. Ci andai che avevo da poco compiuto 19 anni ed ero in vacanza premio per la maturità. Ad onta di tutti gli studi classici che avevo fatto, insomma, quella prima volta lì della Grecia capii poco o nulla, insomma. Ricordo che arrivai ad Atene e la prima volta che vidi Atene ne rimasi veramente spaventato. Una città che si è ingigantita prima negli anni, subito dopo gli anni 20, dopo la guerra greco-turca, perché c'è stato questo scambio di greci che vivevano in Turchia e di turchi che vivevano in Grecia, e la maggior parte sono arrivati ad Atene. Ma poi soprattutto negli anni 50 e 60 ha avuto proprio un'esplosione demografica a Atene, per cui è cresciuta, ed è cresciuta anche senza alcun criterio, pare, guardandola. Specie d'estate, ahimè, sulla città grava una cappa di smog terribile, quindi devo confessare che la prima volta che vidi Atene dissi: qui devo andarmene il più presto, il più in fretta possibile. E quindi andai a Caposunio, che si trova a una settantina di chilometri a sud di Atene, dove c'è un tempio a Poseidone. E dove, tra l'altro, su questo tempio ho scoperto recentemente che il primo deve essere stato Lord Byron. Sicuramente non sarà così, ma a me piace pensarlo. Il sul basamento e sulle colonne, fin dove arriva l'altezza di una mano, è coperto di scritte, ma scritte di tutti i tipi, dai, nomi, cognomi, con la data, Stavrula ti amo, non so cosa del genere. E ho scoperto che anche Lord Byron ci mise il suo, cioè scrisse il suo nome e vicino mise la data. Lord Byron che incide qualcosa sul tempio di Poseidone. Beh, quando la realtà supera l'immaginazione. Comunque, il suo rapporto con la Grecia fu davvero intenso, tanto che non c'è luogo che non ricordi il poeta. Queste le sue parole per descrivere Atene. Eppure quanto sei bella nei tuoi anni di dolore, terra di dei e di uomini divini perduti. E per uscire dal lirismo di questo primo assaggio della meta di oggi, terra di dei e di uomini divini, per dirla alla Byron, mi permetto di pensare all'altra cosa che abbonda da queste parti, le isole deserte, come cantava Claudio Bisio un po' di anni fa. Così pensasti, decidesti e mi annunciasti: quest'estate vado in Grecia con Giovanna, mi preparo a carezzare i nuovi scampoli d'assenza. Io ti dissi: scusa cara, cosa cazzo ti prepari per l'estate? Siamo ottobre, quantomeno prematuro. Tu piangesti tutta notte, dal mattino ti svegliasti, gli occhi pesti, ripiangesti, mi dicesti: siamo onesti, vuoi che resti per tarpare le mie ali ed impedirmi di volare come donna, carezzare nuovi scampoli d'assenza? Io ti dissi: no, prudenza, non potrei vederti senza quei tuoi scampoli d'assenza. Io rispetto le tue scelte, questo dissi, ma pensavo dentro me che tu e Giovanna in Grecia ci andavate solo per sentirvi. Della nostra ferrovia che trafigge il solaio. Puttana. La prima isola che il primo luogo di cui mi sono invaghito della Grecia è stata quest'isola che si chiama Icaria e che è un'isola dell'Egeo nord-orientale. Si trova molto vicino alla Turchia, molto vicino a Samo. Tra Icaria e la Turchia c'è Samo. È un'isola molto, molto particolare perché è poco turistica, però questa cosa qua delle isole poco turistiche in Grecia è quasi, no, è decisamente una banalità, perché effettivamente ce ne sono così tante, appunto come dice Bisio, che anche quelle turistiche di fatto hanno sempre delle zone che lo sono poco, lo sono di meno di altre, dove si può stare più che bene, insomma, per chi ama un viaggio di quel tipo, insomma, non, insomma, di discoteche e cose del genere in Grecia ne ho viste ben poche, devo dire che evito accuratamente, ma o comunque nelle isole greche più famose è bene andarci, insomma, in periodi di bassa stagione, cose del genere. Anche Andrea Roncaglione ha qualcosa da dire sulle isole e parte da Icaria, carica già nel nome di mito e leggenda. Infatti pare che proprio qui cade in volo Icaro dopo essersi avvicinato troppo al sole nel tentativo di fuggire da Creta. E tra mitologia e realtà il mio compagno di viaggio mi introduce al popolo dei greci. Però direi di più, che secondo me ho quest'idea, che è una delle componenti principali del mio amore per la Grecia, che sono i greci, che dalla mia limitata esperienza mi sembra che abbiano una capacità tutta loro di mantenersi sulle proprie posizioni, non di abbandonarsi proprio al turismo più sfrenato. In buona sostanza, se c'è un motivo per cui torno e ritorno in Grecia, è che in Grecia è un posto in cui non quasi mai mi sono sentito turista, proprio da spennare, quasi mai, ed è una cosa effettivamente incredibile se si pensa sia all'archeologia e al fatto che di fatto la Grecia è la culla della civiltà occidentale, e sia che si pensi al mare, che è senza dubbio il mare più bello che sia in Europa. Icaria, come tante altre isole, è più rappresentativa di questo atteggiamento dei greci nei confronti del turismo, per cui c'è una certa rilassatezza, direi, delle infrastrutture, diciamolo chiaramente. Insomma, ci sono strade a Icaria, ho controllato poco tempo fa grazie a Google Earth, ho guardato se la magnifica strada, la litoranea che passa a sud dell'isola, l'avessero finalmente asfaltata. Per fortuna non l'hanno ancora asfaltata, e mi ricordo che quasi 20 anni fa, la prima volta che ci andai, erano già lì che parlavano di asfaltare questa strada. Ma nel frattempo a Icaria hanno costruito un aeroporto, quindi ci arriva pure l'aereo. Quindi c'è una sorta di tranquillità, proprio, che secondo me è qualcosa di più di tranquillità, è proprio un po' una consapevolezza che più lentamente si procede nelle strutture turistiche, meglio è per tutti. E questo fa il paio anche con un atteggiamento generale dei greci, che spesso viene scambiato quasi per scontrosità, che secondo me non è affatto scontrosità, è appunto un atteggiamento un po' guardingo nei confronti dei turisti. Ripeto, è una generalizzazione, quindi ci saranno zone e zone, sicuramente nelle isole meno turistiche è così, un atteggiamento un po' guardingo, che però secondo me fa molto bene al viaggio. Appunto, ti senti viaggiatore e non un turista. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Grecia con Andrea Roncaglione. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Sono nella culla della civiltà occidentale con Andrea Roncaglione, che mi sta facendo fare per ora un giro delle isole greche. Siamo partiti da Icaria e dalle sue bellezze, e qua e là mi dà anche qualche spunto di riflessione sui greci. Sui greci è la cosa più sconvolgente per me, e che mi è capitato più volte, so che sembra strano, di incontrare così un ateniese di 25 anni su una spiaggia di qualche isola, che venuto a sapere che arrivavo da Torino mi chiedesse come andava l'alta velocità alla Val di Susa. E è veramente stupefacente, perché devo ammettere, almeno una volta io l'ho guardato e non sapevo neanche bene chi fosse al governo in Grecia in quel momento. Mi sembra, di nuovo è una generalizzazione, ma visto che queste cose mi sono successe più volte, mi sembra che sia un popolo molto, molto interessato, molto curioso e molto informato, ahimè. Sicuramente dipenderà anche dai mezzi di informazione loro. Ma torniamo alle isole. Poi Icaria me ne aveva parlato una mia amica, dicendomi appunto che era molto poco turistica, e quindi ho provato ad andare a vedere. Diciamo che poi sono stato su tante altre isole, come scrive Lawrence Darrell, che è il romanziere fratello di Gerald Darrell, il naturalista, che è uno che ha passato la vita a saltare da un'isola greca all'altra, si trovava dei lavoretti di qua e là pur di stare su un'isola greca. Alla fine concluse, lui era inglese, ma questo non c'entra nulla, concluse che era affetto, che lui e i suoi amici erano affetti da isolomania. Si inventò questa malattia. Isolomania, aggiungo io, nella sottospecie dell'Egeo, perché poi stava sempre lì. E io pensavo di essere affetto dall'isolomania finché poi non ho fatto un giro del Peloponneso, che è stata proprio l'ultima volta che sono andato in Grecia. E lì ho scoperto che proprio la Grecia mi piace tutta. Cioè, anche il Peloponneso è magnifico. Forse il vero motivo di tanta gratificazione è il viaggio isola, stesso, come dice proprio Lawrence Durrell. Qui sono stato due volte, che fu usata come confino, anzi proprio forse il confino per eccellenza, si chiama Gardos e si trova a un'ottantina di chilometri sotto Creta. È il punto più a sud dell'Europa. subito dopo Gavdos inizia proprio il Mar Libico, un'isola selvaggia proprio, che ha pochissimi villaggi, pochissime costruzioni, in genere sono le costruzioni proprio dei deportati, ahimè, dove adesso invece ci sono delle simpatiche taverne piccole o degli spacci. A Gavdos effettivamente non ci sono rovine importanti, e lì a farla da padrona è la natura proprio. C'è una foresta di altissimi maestosi cedri ed è un posto magnifico, ovviamente molto poco, proprio perché così difficilmente raggiungibile, molto poco. Cioè, c'è un turismo molto molto particolare a Gavdos, in buona sostanza. Συγχώρεσέ με, σ' αγαπάω. Εγώ θα πάω. Εγώ θα πάω. Εγώ θα πάω. Το πολύ πολύ. Siamo arrivati a Gavdos, la più meridionale delle isole della Grecia, l'isola che secondo Callimaco era stata l'antica Ogigia, abitata da Calipso. E qui riaffiora prepotentemente la scuola e mi vengono in mente quei 7 anni in cui Ulisse fu prigioniero, si fa per dire, della bella e sensuale ninfa. Ma Andrea mi riporta coi piedi per terra, piedi che però devono calzare scarpe particolari. Devo dire che la prima volta che sono andato lì mi sembrava la colonia estiva di una casa occupata o di un centro sociale, perché erano tutti vestiti tendenzialmente di nero con i tatuaggi e portavano tutti gli anfibi. E poi ho scoperto in un'altra isola ad Anafi, il nome Anafi significa senza serpenti, è un'isola famosa per il resto, perché non ci sono serpenti né scorpioni né animali particolarmente pericolosi. E lì un ragazzo che ho conosciuto, un ateniese, Christos, mi informò che Gavdos, per quanto ne sapeva lui, era famosa per gli scorpioni della sabbia, diceva. E quindi mi spiegai, al di là delle questioni di stile e di appartenenza politica, perché a Gavdos andavano in giro tutti quanti con gli anfibi. Io andavo con le mie infradito e vabbè, mi è andata bene per ben 2 volte di seguito. Le scarpe dicono molto di una persona, ma anche di un luogo. Visto che siamo partiti con le isole e con un tipo di viaggio molto on the road, chiedo a Roncaglione se lo zaino in spalla è un must o se c'è spazio anche per altro. C'è effettivamente la possibilità di fare tutto, però in Grecia fino ad oggi è abbastanza sbilanciata verso la prima, cioè sulle isole di fatto ci sono pochissime macchine, appunto le strade spesso non sono asfaltate. Una cosa che effettivamente per il turista, una cosa che ho sempre detto, cioè per il turista con lo zaino in spalle è proprio paradisiaca ed è perfetta. Ci sono anche altre realtà e altre strutture più organizzate. Devo dire che nonostante questo aspetto, cioè le strade magari non sono asfaltate, però io con i pullman, con gli autobus, sono sempre stato molto più fortunato in Grecia che, per dire, in Puglia, ecco. Cioè le strade non saranno asfaltate, però gli autobus ci sono, non arrivano in orario, però ci sono fino a tarda sera, per cui poi, cioè lo sanno loro che se c'è un gruppo di turisti in un posto e deve mangiare, deve raggiungere la capitale, che tipicamente si chiama sempre Cora su quest'isola, c'è la Cora che è la capitale. L'asfalto sulle strade non è certo segno di civiltà, mentre l'atteggiamento della gente e i servizi dello Stato sì. Sembra inoltre che anche in ogni pietra che si incontra ce ne sia un po'. per esempio di Caria ho dormito a lungo e per 2 anni di seguito in un campeggio che si trova a Na, che è un posto a nord ovest di Caria, un campeggio che si trova lungo un torrente, e quando il torrente non è secco è un posto ovviamente magnifico per cui fare il bagno sia in mare che nel torrente. E ovviamente, cosa che ti può capitare soltanto in Grecia, soltanto dopo un po' ti accorgi che ci sono delle pietre che brillano sotto la luna quando vai in bagno di notte. Dici, ma cos'è? Domani vado a vedere. Ed è un tempio ad Artemide del VII secolo avanti Cristo, proprio una cosa arcaica. E quindi ovunque vai ti incontri cose del genere che ti lasciano effettivamente senza fiato. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Grecia con Andrea Roncaglione. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Sono partita da Atene con Andrea Roncaglione, affetto come lo scrittore Lawrence Jurel da isolomania, e sono arrivata in un'isola dalla bellezza disarmante, Icaria. Poi abbiamo fatto una capatina a Gavdos, dove tutti indossavano anfibi ai piedi, e passando per Anafi, l'isola senza serpenti, come dice il nome, abbiamo scoperto il perché. Impossibile non imbattersi in reperti archeologici di grande valore facendo questo tour. Anche laddove sembra non esserci che natura selvaggia, in realtà ci sono templi legati a miti che raccontano la storia della nostra civiltà. I greci sono molto criticati, ma anche gli italiani d'altronde, per il modo in cui tengono i loro resti archeologici. Bisogna anche dire che è difficile, perché lì ogni 3 metri ce n'è uno, e quindi anche questo secondo me rientra in una certa normalità con cui affrontano questa cosa qua, anche perché loro, vivendo lì, ovviamente sono a contatto con queste con la storia, addirittura con il mito, quotidianamente. Se ergessero intorno a questo mito, intorno a questi ruderi, una cattedrale ogni volta, non vivrebbero più, insomma, sia da un punto di vista psicologico che poi da un punto di vista pratico. E quindi, appunto, spesso circondati da un retino ridicolo, trovi appunto delle cose, dei resti archeologici magnifici. E questo in effetti ci porta a parlare di Micene, che effettivamente Micene, luogo turistico per eccellenza, meta di un sacco di pullman tutti i giorni. Ottimamente tenuto, bisogna dire, perché a differenza del museo archeologico di Atene, dove appunto si affastellano un sacco di oggetti, e lì di nuovo hanno il problema che spesso abbiamo anche noi in Italia, ma forse addirittura accresciuto, di non sanno dove mettere tutta questa roba. Andrea dice Micene e io di nuovo mi ritrovo sui banchi di scuola con Omero. Però, a parte queste cose, Micene è già di suo in una posizione veramente strana, cioè quasi inquietante. Sotto vedi la piana dell'Argolide, e laggiù in fondo proprio intuisci il mare. E Micene è costruita su un montarozzo che a sua volta è tra due montarozzi piramidali, quasi. Cioè è un posto strano. E poi non so, c'è la porta dei leoni, che poi sono due leonesse perché non hanno la criniera. E io quando sono arrivato lì mi sono immedesimato nel tipo che, quando arrivò Schliemann, che scavò Micene, portava le pecore a pascolare sotto la porta dei leoni. Che anche questa cosa qua mi ha sempre fatto molto ridere, cioè tutti sapevano dove era Micene, cioè è ovvio. E appunto quello che dicevo prima, cioè alla fin fine, insomma, se devi far pascolare le pecore, le porti anche sotto la porta dei leoni. Non è che tutte le volte devi arrivare davanti alla porta dei leoni e dire: oh mio Dio, qui sotto questa porta passò e ripassò Agamennone. No, passò e ripassò Agamennone, adesso ci passano le mie pecore, ecco. E la cosa mi ha sempre fatto molto, molto ridere, che appunto Schliemann arrivò e scavò lì sotto. È qui che si è avuto l'apogeo della cultura micenea, che ha dato poi l'avvio a tutte le culture europee. Schliemann non ha fatto solo una scoperta importantissima, ma, come dice lui, ha guardato negli occhi Agamennone, e Dio con lui adesso. Όταν πεθάνω σε ένα γλέτι μια βραδιά, να μη με κλάψτε, μα τραγούδια να μου πείτε. Και στο σταυρό μου να μου γράψετε, παιδιά, ένας μπατήρης ευτυχής εν θα δεκείτε. Schliemann poi era un personaggio interessante, perché usava Omero come, proprio come mappa. Lui partiva dal suo caposaldo, era che Omero diceva, raccontava il vero, e bisogna ammettere che di errori ne ha fatti tanti, soprattutto sugli strati, eccetera eccetera. Io poi non sono un esperto, ma so che si sbagliò più volte, però non si sbagliò nella struttura principale, cioè Omero, effettivamente, seguendo le indicazioni di Omero, lui trovava esattamente tutte le cose che aveva descritto Omero. E questo, ovviamente, quando si va a vedere, vanno a vedere i resti di Micene, accresce enormemente l'emozione che hai di trovarti in un luogo in cui sono successe delle cose che tu hai studiato, hai letto, hai riletto migliaia di anni fa, ecco, insomma. Tutto è lì, immobile, come l'hai imparato anche nelle traduzioni infernali dal greco ai tempi della scuola. Confortante, da un certo punto di vista, avere dei punti di riferimento che risalgono a migliaia di anni fa. Ma questo vale anche per i viaggi, dove solo l'anno precedente hai conosciuto un luogo e ti piace l'idea di ritrovarlo così com'è. Io evito di tornare due volte nello stesso posto, perché tanto la delusione è inevitabile. Basta che ti costruiscano una casa nuova e ti può infastidire questo, e non è una cosa che possa infastidire, però ahimè i ricordi sono quelli che sono, quindi a uno piace ricordare le cose così come le ha viste la prima volta, soprattutto se gli sono piaciute molto. La tendenza, lo so, è quella di tornare nel posto perché... appunto perché ti è piaciuto molto, ma se posso evito. Mi è successo un paio di volte, ma ho subito cambiato meta. La passione per le isole, mi racconta Andrea, è stata negli anni affiancata da quella per il Peloponneso. Insomma, pare proprio che la Grecia sia tutta da visitare. No, la cosa bella è la Grecia per me è proprio come un innamoramento, e lo vedo dal fatto che l'ultima volta che ci sono stato è sempre la più bella, insomma. Ritorno ogni volta con una una cosa nuova che credo di aver scoperto in Grecia. E appunto, pensavo che la mia passione fossero le isole, ma in realtà anche il Peloponneso mi è piaciuto, cioè temo, suppongo che mi piaccia un po' tutto della Grecia. Ci sono vari elementi che congiurano affinché ciò accada, evidentemente. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Grecia con Andrea Roncaglione. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Isole, ma anche Peloponneso. Zaino in spalla, ma anche comfort. Divertimento, ma anche storia e cultura. Reperti archeologici, ma anche mare e spiagge. Strade sterrate, ma anche civiltà nelle persone e nei servizi. Claudio Bisio, ma anche Omero. Insomma, la Grecia pare davvero essere la sintesi di tutto quello che serve per intraprendere un viaggio, interiore o geografico che sia. A questo punto manca solo la colonna sonora. Sì, sicuramente la musica greca che ascolti dappertutto. In Grecia si ascoltano fondamentalmente, ho ascoltato, poi si ascoltano, no? Si ascolterà di tutto. Ho ascoltato fondamentalmente tre tipi di musica. Allora, una volta che ho affittato una macchina insieme a degli amici e ascoltavamo la radio sempre, dopo un po' non se ne poteva più della musica proprio tipica greca, che è una cosa, cioè non se ne poteva più perché appunto eravamo spesso in macchina e quindi ascoltavi per ore e ore. Però è anche una cosa bella, cioè nelle discoteche capita che il momento della musica tipica c'è sempre, a un certo punto si ascolta la musica delle discoteche, a un certo punto però una canzone o due di musica tipica. Poi c'è, io da italiano apprezzo proprio anche le cose classiche della musica greca, da Theodorakis eccetera eccetera, però conoscendo ovviamente gli ateniesi, insomma, ne hanno un po' la barba di queste cose qua che ascoltano in continuazione. Quindi una volta mi ricordo che avevo conosciuto questo ragazzo ateniese che mi aveva fatto conoscere un cantautore locale, penso demenziale, perché si chiama Panussis, questo si chiama Panussis, che faceva delle canzoni, vabbè, il testo della canzone effettivamente volevo citarlo, ma mi rendo conto che non si può tanto citare perché ha alcune bestemmie grosse, cioè i greci sono molto più tolleranti nei confronti della bestemmia, noi italiani no, e quindi non lo citerò, sono molto più sportivi in queste cose qua. Forse anche questo è dovuto alla loro lunga storia e al grande numero di dei che da sempre troneggia sulle teste dei greci. Una religione monoteista è certamente più suscettibile. Faccio una domanda che mi sta a cuore, visto il sudore speso sui banchi del liceo. Ma aver studiato il greco può aiutare? No, parlano tutti inglese molto meglio di me. Il greco antico serve, se studiato greco antico serve per leggere i segnali stradali, che comunque è già qualcosa, però tanto si pronuncia in maniera completamente differente, però ti serve per scrivere, hanno non so quanti modi di scrivere E, con quei misteri delle lingue, sono fantastici. No, direi assolutamente no, problemi con le lingue. Ho incontrato anche molti greci che parlavano italiano. Succede spesso, non so, o li conosco soltanto io, o succede spesso che i greci vengano in Italia a studiare, specie medicina, per esempio a Torino, appunto. Ne ho conosciuti parecchi che poi ho incontrato là. E quindi, se sono stati qualche tempo in Italia, parlano italiano. Rassicurante pensare che a qualcosa è servito studiare greco antico e non solo a dare sfoggio di cultura alle cene quando si cerca l'etimo di una parola. Sorrido e penso al film Il mio grosso grasso matrimonio greco, nella scena dello sketch sui nomi. Un benvenuto alla famiglia Portokalos. Forza, e un benvenuto alla famiglia Miller. Stavo pensando ieri sera... La sera prima che mia figlia si sposa con Ian Miller, che insomma la radice della parola Miller è una parola greca. Miller viene dalla parola greca millo, che significa mela. Ed ecco qua. Come molti di voi sanno, il nostro cognome Portokalos viene dalla parola greca portokali, che significa arancia. Dunque, allora, qui stasera abbiamo mela e arancia. Siamo tutti diversi, ma alla fine siamo tutti frutta. La Grecia, culla della nostra civiltà, e il greco, alla base della nostra lingua, ci hanno accompagnato fin qui. Adesso siamo arrivati alla similitudine più ardua, quella tra greci e italiani. E la frase di Mediterraneo di Salvatores è lì che risuona nella testa. Egos, eimi, strategos, italicos. Parlo pure italiano. Sono stato 20 anni a Roma. Italiani, greci, mia faccia, mia razza. Una faccia, una razza. Eppure c'è una bella differenza e Andrea me la vuole sottolineare. I greci sono convinti che gli italiani siano delle persone molto poco nazionaliste e molto poco, cioè che non esista l'italiano, che esiste il piemontese, esiste il ligure, anzi esiste il torinese, esiste e per loro questa è una cosa, è una caratteristica magnifica dell'Italia, anche secondo me è una caratteristica che può essere positiva dell'Italia, mentre loro di se stessi lamentano un eccessivo nazionalismo. Effettivamente ci sono bandiere greche un po' dappertutto, c'è sempre questa, cioè sai sempre benissimo dove se sei in Grecia o da un'altra parte. Capisco che magari per un greco questo possa risultare un pochino asfissiante magari alla lunga. Sicuramente è dovuto a motivi storici, alla guerra con la Turchia, insomma, al fatto che abbiano dovuto preservarsi sempre molto, insomma, in qualche modo. Non può essere solo questione di nazionalismo, a me sembra più una questione di interpretazione della libertà. Sembra proprio come popolo più attento a queste cose, più presente nell'ambito della protesta. Appunto l'elemento della protesta arriva anche in situazioni turistiche. ricordavo sempre quest'altro ragazzo ateniese che avevo conosciuto ad Anafi, qui in quell'isola appunto senza i serpenti, che insomma noi facevamo campeggio libero, dormivamo su una spiaggia, dietro questa spiaggia c'era una taverna dove si mangiava magnificamente, tenuta da un pope e dalla moglie del pope e dai figli del pope, però non c'era, quindi noi in qualche modo rappresentavamo un'entrata sicura, no, per questo pope, perché dormivamo lì e quindi dovevamo mangiare nella sua taverna. E quindi questo ragazzo aveva iniziato tutta una protesta perché questo pope effettivamente, avendo fatto i suoi calcoli, non ci forniva acqua naturale, acqua non salata, perché aveva due stanze dietro con l'acqua non salata. Non so, mi viene a dire che è difficile che un italiano si prenda a cuore una situazione del genere, vada a discutere con il pope, con tante, un greco lo fa immediatamente. Visti i racconti di Andrea Roncaglione e viste anche le vicende dell'ultimo periodo che hanno animato le piazze di questo paese straordinario, saluto la Grecia e il suo popolo con una poesia di Alexandros Panagoulis. Le lacrime che dai nostri occhi vedrete sgorgare, non crediatele mai segni di disperazione. Promessa sono solamente, promessa di lotta. Ora Andrea Roncaglione è in libreria con Ciulc, apprendista alla corte di Re Artù, Miraggi Edizioni. Carinita mi amor, carinita mi amor, carinita mi amor, sagapo. Compagni di viaggio. Testi di Morena Rossi, voce di Adele Pellegatta.